giornale radio del Friuli Venezia Giulia. A Udine una serie di risse e aggressioni avvenute tra il pomeriggio e la sera di sabato. 3 giovani stranieri feriti, di cui un minorenne accoltellato e in gravi condizioni. Grazie al DNA potrebbero essere arrivate una svolta le indagini per l'individuazione di una bomber. L'attentatore, che tra il 1994 e il 2007 posizionò una trentina di ordigni esplosivi in luoghi aperti al pubblico in Friuli Venezia Giulia e in Veneto, causando lesioni e menomazioni alle vittime degli scoppi. In Serie A l'Udinese potrebbe festeggiare in anticipo la salvezza oggi in caso di successo allo Stadio Friuli contro l'Empoli, che invece in caso di vittoria scavalcherebbe i friulani a 90 minuti dal termine del campionato. In Serie C di calcio sfuma anche quest'anno l'obiettivo promozione per la Triestina, che chiude la stagione perdendo per 2-1 nella trasferta di Benevento. Basket, le regionali di A2 entrambe impegnate in trasferta in gara 1 delle semifinali playoff promozione. Le 12 e 16 minuti, ancora un buongiorno e una buona domenica da Giorgio Beyerz e Maria Spezia, che condurranno questa seconda edizione del giornale radio del Friuli Venezia Giulia del 19 maggio. In apertura dunque la cronaca: a Udine la polizia sta indagando su una serie di aggressioni che sono avvenute tra il pomeriggio e la sera di ieri sabato, con 3 giovani feriti, di cui uno grave, un ragazzino che è stato accoltellato in centro città, in vicolo Brovedani, nel corso di una rissa, ed è stato ricoverato in codice rosso e in prognosi riservata. L'aggressore sarebbe un altro minorenne straniero, sulle cui tracce sono ora gli agenti della squadra volante e mobile della questura del capoluogo friulano. Udine, piazza San Giacomo, il salotto buono della città, dove la domenica mattina giocano i bambini. Pochi metri e sul fianco della chiesa di San Giacomo si apre vicolo Brovedan, con una livrea da suburra, angolo di degrado dove è evidente il male del vivere urbano. Qui sabato pomeriggio, e non è la prima volta, sono volati i coltelli. Un minore straniero è stato ferito in modo gravissimo all'addome e ricoverato in codice rosso all'ospedale cittadino. Un altro, nel parapiglia, ha riportato una profonda ferita di un braccio. Il tutto sotto l'occhio delle telecamere e dei residenti impauriti. C'era il corpo del ragazzo disteso, riverso appunto nel sangue. E da lì appunto abbiamo chiamato io e la vicina, la polizia. In questura ci sono già i volti del gruppo di ragazzi, verosimilmente minori non accompagnati, ospiti nelle varie case di accoglienza della città e dell'Interland, che, soprattutto il sabato, si confrontano sui campi violenti dello spaccio e delle rivalità etniche. Da tempo il capoluogo friulano ha perso la fama di essere isola felice e si interroga sul da farsi. Allontanarli immediatamente, che non facciano combutta. Udine, Armando Mucchino, TGR Friuli Venezia Giulia. Potrebbero essere arrivate una svolta le indagini per l'individuazione di una bomber. L'attentatore, che tra il 1994 e il 2007 posizionò una trentina di ordigni esplosivi in luoghi aperti al pubblico in Friuli Venezia Giulia e in Veneto, causando lesioni e menomazioni a danno delle vittime. Dopo la riapertura dell'inchiesta della Procura di Trieste a fine 2022, grazie alla riemersione di materiale raccolto sul luogo degli attentati e grazie anche ai progressi delle analisi scientifiche, secondo quanto pubblicato sui quotidiani regionali Il Piccolo e Messaggero Veneto, si è ora arrivati all'individuazione del DNA mitocondriale ancora presente sui reperti analizzati. Ora sarebbe il momento della comparazione del DNA identificato con quello dei sospettati, per la quale i periti nominati dal tribunale hanno richiesto una proroga di 2 mesi di lavoro. Intanto Maurizio Paniz, storico avvocato difensore di uno dei sospettati degli attentati, l'alzanese Elvio Zornitta, da noi raggiunto al telefono, ha espresso perplessità per risultati di cui non è stato avvertito né dalla procura né dal giudice per indagini preliminari, di cui non si conosce ancora lo stato di conservazione dei reperti analizzati. Anche Paolo Patelmo, difensore del fratello di Zornitta, Galliano, ci ha attestato di non aver ancora ricevuto aggiornamenti sul caso. 12:19, passiamo al meteo. Il cielo è da poco nuvoloso a variabile sulla regione. Queste le temperature registrate alle 11:00. A Trieste 19 gradi, Gorizia e Pordenone 21, Udine 20 gradi, in area montana Tolmezzo e Tarvisio 19, Forni di Sopra 16 gradi 5 decimi, Sappada 13 gradi e mezzo, Piancavallo 11 gradi e mezzo. In quota sul Monte Zoncolano e sul Monte Lussari 10 gradi, sulla costa Lignano 20 e a Grado 19 gradi e 5 decimi. E queste le previsioni dell'Agenzia Regionale di Protezione Ambientale del Friuli Venezia Giulia. Oggi il cielo sarà da poco nuvoloso a variabile, con però possibilità di qualche locale rovescio, specie sui monti. Domani cielo variabile, possibile qualche locale rovescio nel pomeriggio sera. Lo scrittore Paolo Giordano interverrà a Trieste nel calendario del festival Scienze Virgola per dialogare con la giornalista Cecilia Sala sul suo saggio L'incendio, reportage su una generazione tra Ucraina e Medio Oriente. Appuntamento al Teatro Miela alle 19. La locandina della rassegna organizzata dalla Scuola Superiore di Studi Avanzati SISSA prevede per oggi numerosi appuntamenti, tra cui La vendetta delle orche e altre storie di resistenza animale dal titolo del libro di Roberto Inchingolo. Previsto alla libreria Ubiche che è iniziato pochi minuti fa. Con riferimento ai casi di cani che azzannano persone con cui vivono, l'autore spiega che le reazioni animali variano nelle specie e negli esemplari e che il nostro controllo su di loro non è completo come pensiamo. Lo abbiamo intervistato per chiedergli se dobbiamo sempre avere un atteggiamento difensivo nei confronti degli animali, anche quelli che convivono con noi. Assolutamente no, anzi di solito i casi di aggressione vengono proprio da incomprensioni, vengono da malintesi e vengono dal fatto che si percepisce una tensione da parte dell'animale nei confronti del padrone, nei confronti di chi altro sta in casa con l'animale. Questo significa che più si sviluppa un senso di fiducia, più un senso di tranquillità, più i casi di aggressione non si verificheranno. D'altronde la questione delle orche, che dà il titolo al mio libro, è proprio questa. I casi di aggressione in realtà non sono aggressione nei confronti degli esseri umani. Le orche sono molto curiose nei confronti di noi umani ed è anche per questo che si avvicinano alle barche, ma le aggressioni sono rivolte soltanto agli yacht, soltanto ai pescherecci, soltanto alle barche. Una volta affondate, una volta messe fuori uso, non ci sono stati assolutamente casi di attacchi e di danni fatti a persone. Gli unici casi di persone morte per causa di orche è stato in cattività, in delfinari, e non allo stato brado, nonostante tutti questi attacchi siano sempre più frequenti. Passiamo allo sport, iniziando dal calcio. In Serie A l'Udinese potrebbe festeggiare in anticipo la salvezza in caso di successo allo Stadio Friuli contro l'Empoli, che in caso di vittoria scavalcherebbero però i friulani a 90 minuti dal termine del campionato. Fischio d'inizio alle 15, tra pochi minuti intanto scenderanno in campo nello scontro diretto altre due avversarie nella lotta per non retrocedere, Sassuolo e Cagliari, mentre l'altra squadra in pericolo, il Frosinone, giocherà in trasferta nel pomeriggio sul campo del Monza. In Serie C sfuma anche quest'anno l'obiettivo promozione per la Triestina, che chiude la stagione con una sconfitta, perdendo per 2-1 nella trasferta di Benevento, dopo che all'andata al Rocco era finita con un pareggio per 1-1. Ora quindi è tempo di bilanci e di riflessioni sui tanti errori commessi in questa stagione, come l'allontanamento dell'allenatore Tesser, rimpianto a lungo dai tifosi, e un mercato di riparazione a gennaio privo di innesti importanti. Mestamente, ma provandoci, la Triestina a Benevento chiude la stagione sconfitta 2-1 dai campani. Serviva una vittoria dopo l'1-1 dell'andata e la partita si era pure messa in discesa. Calcio piazzato al terzo minuto, padrone di casa distratti, il solito Malomo che svetta e mette gli alabardati con la testa avanti. Dura poco perché la fase difensiva neo della squadra Libordin, ma che pure con Tesser non aveva brillato, è approssimativa. Al nono, Vallocchi è troppo leggero e regala a Ciciretti un assist che l'ex Serie A pennella all'incrocio, equilibrando il punteggio. Invece di essere una sveglia, il pari addormenta ancora di più la retroguardia triestina. Correia e ancora Vallocchia sono teneri nel contrasto. Perlingeri nel flipper trova l'angolo che dovrebbe chiudere la contesa già al quindicesimo. Dovrebbe, perché la Triestina, pur con una formazione inspiegabilmente con un solo attaccante, comincia a creare occasioni. D'Urso e Minesso però, in rapida successione, sono imprecisi nella conclusione, prima che Matošević si superi su Ciciretti allo scadere del primo tempo per lasciare aperto almeno uno spiraglio. Nella ripresa entra Fertainen davanti, preferita a un Lescano misteriosamente in panchina a tutti i playoff, in finlandese da profondità, e sono i Legni a dir di no agli alabardati. Reidan al 47esimo colpisce il palo dopo un gran controllo, l'olandese con una punta vicino gioca sensibilmente meglio. Ancora Matošević si fa trovare pronto quando la Triestina rischia, poi a un quarto d'ora dalla fine un altro palo chiude ogni speranza di assalto finale. Cross dalla tre quarti, Fertainen gira, ma è addirittura troppo preciso. La prima stagione della nuova proprietà americana si chiude al terzo turno dei playoff, un epilogo soddisfacente visto da dove si è partiti, ma anche amaro considerando come era cominciata la stagione e quanti soldi sono stati spesi. Trieste, Andrea Saule, TGR Friuli Venezia Giulia. Per il basket, le regionali di A2 entrambe impegnate in trasferta in gara 1 delle semifinali playoff promozione. La Pudine sarà di scena a Cantù, mentre la Pallacanestro Trieste, priva di Allen, sarà impegnata sul parquet di Forlì. Entrambe le sfide cominceranno alle 18. Per l'atletica questa mattina è andata in scena la 21esima edizione della gara di corsa su strada di 10 km Corri Trieste, inserita nel calendario nazionale FIDAL, che quest'anno ha registrato la partenza dal Porto Vecchio il 35% di iscrizioni femminili da 22 nazioni, con atlete provenienti anche da Brasile, Perù e Stati Uniti d'America. Tra i partecipanti più maturi, la 87enne Anna Lucia Fanelli e il 72enne Giorgio Bernardo. 400 partecipanti, su cui ha prevalso l'ugandese Martin Kiprotich, che ha tagliato il traguardo dopo 28 minuti e 20 secondi e ha abbassato così il primato di gara di 26 secondi. Secondo classificato, l'etiope Ararso Gemeda, vincitore dello scorso anno, mentre il podio è stato completato da Thomas Donny Oliver di Trieste Atletica in 32 minuti e 10 secondi. Al femminile è rispettata la previsione che vedeva la keniana Caroline Gitonga fare il bis e che ha chiuso la sua prova in 31 minuti e 43 secondi, prima delle italiane Barbara Vassallo in 37 minuti e 16 secondi. A Cividale del Friuli si è disputata invece la 31esima edizione della Corsa per Haiti, che tocca 10 comuni nelle valli del Torre e del Natisone. Due percorsi agonistici, il gran fondo di 142 km, il medio fondo di 96, cui si aggiunge quello della cicloturistica per Haiti di 78 km, oltre 400 i volontari impegnati nella manifestazione. L'iniziativa versa i proventi della corsa alle persone più sfortunate che popolano l'isola caraibica a cui è proprio intitolata la corsa. Ciao tu, animale stanco, sei rimasto da solo, non segui il branco, balli il tango. La cantautrice Levante, di cui in sottofondo state ascoltando la canzone Tiki Bon Bon, concluderà il suo tour organizzato per festeggiare i 10 anni di carriera, esibendosi a Udine al Teatro Nuovo alle 21. Già inclusa nelle classifiche degli album più venduti fin dal suo esordio, l'artista siciliana è nota anche per aver scritto un libro, per aver partecipato al Festival di Sanremo e per aver firmato le musiche originali del film Romantiche. Ancora un appuntamento con la musica, la rassegna Parole e Musica attraversano i confini si concluderà oggi con l'esibizione di liriche da camera scritte su ispirazione di motivi della tradizione ebraica a Gorizia Palazzo Attems. Da oggi l'orario del servizio urbano di autobus di grado diventa estivo, aumentando le corse sia nei giorni feriali, che saranno una decina in più, sia di domenica, a fronte di un servizio raddoppiato da 14 a 28 corse. In questo modo il servizio garantirà un transito ogni 30 minuti tutti i giorni della settimana. Il collegamento serale notturno con i campeggi invece partirà il 10 giugno, in concomitanza con l'avvio dell'orario estivo del servizio extraurbano. Con il biglietto urbano orario si può viaggiare per 60 o 75 minuti nei giorni feriali e per 4 ore nei giorni festivi, al costo rispettivo di 1,45 euro e 1,80 euro. Ed è tutto per questa edizione del giornale radio, che è stata redatta e condotta da Maria Spezia e Giorgio Bearz, con la collaborazione tecnica di Federico Comar e Riccardo Stoic. Ha collaborato in redazione Daniela Sossi. Prossimo appuntamento con il GR alle 18:30. A tutti voi l'augurio di una buona domenica. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.